La fine dell'uomo. Un ciclo di 6 appuntamenti all'insegna della fantascienza radicale. Ogni seconda domenica del mese, a Piano Terra, Milano. Questa è la registrazione del primo incontro del 13 gennaio 2019. Parliamo di evoluzione e catastrofe, con Roberto Paura. Nuovi, uno spazio sociale autogestito al quartiere Isola da 6 anni. Prima di giungere alla presentazione di questo ciclo dall'ottimistico titolo La fine dell'uomo, provo a raccontarvi un pochino non soltanto dove andiamo ma da dove arriviamo. Anzitutto il ciclo appunto sarà questo è il primo di 6 appuntamenti, 6 appuntamenti che si terranno ogni domenica qui al Piano Terra a partire dalle ore 18:30, ogni seconda domenica del mese. Si concluderà quindi a metà giugno. Lo abbiamo fatto a partire da quali esperienze? La scorsa primavera, in occasione dell'anniversario della scomparsa di due compagni, due amici, Primo Moroni e Antonio Caronia, abbiamo costruito un ciclo di iniziative nella cornice di una mostra presso la Fondazione Mudima, con Primo Moroni e Antonio Caronia. Attorno a questa iniziativa, a questa sorta di ricerca dentro l'eredità culturale di queste due figure, sono figliate tutta una serie di produzioni, un racconto cronico e poi una performance, appunto un'ambigocronia, il lavoro di digitalizzazione di tutta la rivista di fantascienza radicale, un'ambigotopia, che dal 78 all'83 insomma ci donò 9 bellissimi numeri che abbiamo completamente reso gratuitamente disponibili online, con anche attraverso una scansione OCR la possibilità di ricerca nel testo e quindi di costruire dei percorsi semantici all'interno di questo archivio, e poi tutta una serie di altri progetti che abbiamo in cantiere. Uno di questi è dall'incontro in particolare con Giuliano Spagnul, Marisa, Gennaro Fucile e via discorrendo, è stato anche l'ideazione di questo ciclo. Il primo appuntamento appunto ha come titolo Evoluzione e Catastrofe. La formula che abbiamo un po' immaginato nasce dalle domeniche di Piano Terra. Noi da 5 anni ogni domenica facciamo proiezioni gratuite in lingua, che vanno da piccolissime autoproduzioni anche ai film che trovate, insomma, che incassano il botteghino negli stessi giorni di proiezione. Lo facciamo con una formula che si chiama Cine senza forum, e quindi solitamente non c'è la chiacchiera. In questo caso abbiamo tentato un'inversione, quindi questo sarà un forum cine che prova a mescolare tre elementi, diciamo così, tenta un'alchimia tra tre elementi. Prima, quello del dialogo, quindi non saranno incontri frontali ma ci sarà una relazione di una ventina di minuti degli ospiti e delle ospiti a cui abbiamo chiesto un contributo, tra gli altri ovviamente controllo, però non dimenticare, però insomma, oltre a Roberto Paura, che come questa sera abbiamo Clara Zanardi, Emanuele Leonardi, Domenico Gallo, Giorgio Seziotti e via discorrendo. Quindi prima il dialogo, poi il convivio, quindi una cena con delle ricette immaginate per tutti voi, nuove, all'insegna della fantascienza, e quindi con una ricerca cromatica di gusto che speriamo possa anche incontrare il vostro consenso. E poi, come di consueto, la proiezione. Partiamo questa sera con Garland, e poi insomma in ogni occasione, ogni domenica ci sarà una proiezione. Il programma lo trovate qui in qualche copia o sui posteroni che stiamo provando a diffondere e distribuire, lo trovate anche online sulle realtà che un po' hanno dato un contributo a questo ciclo, che sono appunto il sito dell'archivio Un'ambigotopia, archivio-wow.online, Off Topic Club, Moroni e Caronia, blogs.org e controcultura.it, insomma tutti i luoghi in cui un pochino siamo presenti, oltre ovviamente ai canali di Piano Terra. Perché partiamo da Evoluzione e Catastrofe? Siamo tutti un pochino figli di un Novecento veloce, che tra olocausti nucleari, guerre mondiali, socialismi falliti e tante altre nefandezze ci ha consegnato soprattutto la fine dell'utopia. Cioè la fine dell'utopia, per come era concepita, una possibilità di evasione da una dimensione unificante, che è quella del primato, della ragione economica su altri modi di vita. Per gente come noi, che sta anche in uno spazio così di attivismo politico e culturale, la dimensione del conflitto, quello ambito soprattutto, più che, oltre che quello realizzato e vittorioso anche in alcuni casi, non ha ripiegato rispetto a tentativi insurrezionali, rivoluzionari, di costruzione di alterità, però sicuramente diciamo così che il lessico politico ci ha portato come minimo a snobbare altre vie, altre forme di resistenza, di resilienza, di immaginazione, di un appunto di esercizio, come dire, immaginativo di altre realtà possibili. In questo la fantascienza ci corre, come dire, il nostro aiuto. Spesso questa fantascienza viene esperita, almeno nella cultura mainstream, attraverso il cinema, che ha un sacco di pregi, però, come dire, esalta alcuni dei nostri sensi, quelli forse più sviluppati, che sono la vista e l'udito, e quindi esalta la dinamica, la dimensione, soprattutto in certa cinematografia, come dire, dell'effetto wow, la dimensione esplosiva, la dimensione definitiva dell'esercizio immaginativo e anche quindi della rappresentazione delle distopie, delle forme del futuro. Attorno alla fantascienza e oltre, diciamo, il lessico immediatamente politico, però ci sono altre forme di immaginazione e di ricerca sul mondo che viviamo, che speriamo, e sui mondi che verranno. Quindi all'interno di questo ciclo non si poteva che partire da evoluzione e catastrofe, perché attenzione, noi non abbiamo posto in alterità come, come dire, due punti univoci di una possibile dicotomia, ma come due elementi che coesistono in qualche misura, di cui uno ha bisogno dell'altro. Spesso, appunto, da attivisti snobbiamo questa dimensione per una sorta di, come dire, di timore o di sciatteria, per cui indagare lo scenario vorrebbe dire, come dire, fisiologicamente accettarlo, e quindi c'è una sorta di presa di distanza. Non che non ci siano felici sperimentazioni in primis quelle di una ligotopia in questo senso, però c'è una sorta di presa di distanza che non ci permette di, come dire, innanzitutto conoscere a fondo, anche per poter contrastare, le forme dell'evoluzione che sono paventate ovviamente nel presente dell'intelligenza artificiale, delle nuove corse allo spazio, come dire, del ricorso a forme di trasformazione dell'umano in direzione di una sua progressiva compenetrazione con la macchina e con altre forme di intelligenza. Ovviamente l'evoluzione non è solo l'evoluzione del soggetto o del fatto corale dell'umanità, ma è anche un'evoluzione che ha preso le vie della geoingegneria, piuttosto che della modificazione del DNA, piuttosto che, insomma, di costruzioni di ipotesi, come dire, neomalthusiane, piuttosto che, insomma, si spazia tantissimo. Abbiamo paura tutti quanti, anche per una sorta di assonanza di carattere, così, dei lemmi, che la futurologia assomigli all'astrologia e che, come dire, l'anticipazione assomigli alla predizione. Quindi anche per questo motivo nelle traduzioni italiane stiamo sempre attenti a tenerci bene alla larga da questo tipo di accettazione. Oggi però abbiamo invitato qualcuno che di Future Studies, non so se può essere una parola che ci piace, però si è occupato, quindi io qui mi fermo proprio per dare spazio, una ventina di minuti, a Roberto Paura, che ringrazio di essere con noi, e a raccontarci quali possono essere, come dire, le sue visioni sull'evoluzione e la catastrofe che viene. Grazie, buonasera. Quasi imbarazzante essere il primo a dover intervenire in questo ciclo così bello che avete pensato, perché a parte la partecipazione, che vedo molto, molto ampia, mi dispiace che qui bisogna stare in piedi a sentirmi, ma sarò breve, voglio sperare. Intanto non potevo però non partecipare a un incontro del genere. Il mio cognome mi ha portato probabilmente ad avere un approccio molto appassionato ai scenari inquietanti, catastrofici e così via. Per esempio, il tema dell'apocalisse e la fine del mondo l'ho sempre seguito con molta attenzione. Vari anni fa avevo messo su con un gruppo di esperti un gruppo di ricerca che si chiama Osservatorio Apocalittico, che si occupava per esempio di fine del mondo, quella della profezia del 2012. Facevamo un po' di debunking, come si dice in gergo, cioè di sbufalare le cose che giravano all'epoca e poi cercare di rispondere alle domande di persone. Non avete idea di quante ne erano che erano spaventate da questa concezione. E questo probabilmente poi mi è rimasto quando qualche anno dopo, insieme ad altri colleghi, abbiamo fondato l'Italian Institute for the Future, che è appunto un centro di future studies che si occupa pure, se vogliamo usare la terminologia popolare, di futurologia. E spesso vengo, diciamo, accusato anche di fare dei scenari, dei trend catastrofisti, ma in realtà appunto ho apprezzato molto la scelta evoluzione e catastrofe, proprio perché va in questa direzione, cioè di far capire che in effetti poi quando si parla di anticipazione del futuro in un'epoca come quella della grande accelerazione in cui viviamo non può non essere un binomio inscindibile, cioè non possiamo pensare che si possa cambiare senza un cambiamento radicale, anche in qualche modo. Poi questo è un aggettivo che voi conoscerete meglio di me. Il tema dell'incontro di oggi l'ho voluto leggere da questo punto di vista, cioè quando siamo di fronte allo scenario del futuro dell'uomo, ci poniamo una visione che da un lato solitamente apocalittica, dall'altro la visione quella transumanista o postumana, che sostiene invece che stiamo ormai andando verso uno scenario ottimistico, quello della singolarità tecnologica che alcuni futurologi hanno previsto anche con delle date precise, il 2045-2050 secondo Reinhard Suell o secondo altri studiosi, in cui l'uomo riuscirà a ibridarsi con la macchina e quindi entrare in questa nuova era della specie umana, una specie postumana, un'era di benessere, di abbondanza. Appunto l'idea, secondo alcuni studiosi, era di parlare non più della società della scarsità, ma di una società dell'abbondanza, quindi una visione utopica. Una visione che, se vogliamo riprendere la concezione appunto di ambigue utopie, però è anche ambigua, perché il postumanesimo che alcuni di questi studiosi postulano è un postumanesimo innanzitutto portato avanti da un'avanguardia che è quella di chi si può permettere una serie di progressi tecnologici per la disponibilità economica. Pensiamo soprattutto ai guru della Silicon Valley, che sono i principali sostenitori e teorici del transumanesimo, che guardano non solo guardano con attenzione, ma sono miliardi ormai nelle ricerche per sconfiggere la vecchiaia o raggiungere l'immortalità, oppure nelle ricerche per l'ibridazione uomo-macchina. Per esempio Elon Musk, oltre a lavorare per portare l'uomo su Marte o l'auto elettrica, sta lavorando anche su Neuralink, su questo progetto che dovrebbe garantirci, tramite una sorta di interfaccia, di fascetta che ci metteremo sulla fronte, questa è un'idea vecchia della fantascienza, un potenziamento cognitivo in grado di permetterci di superare i vincoli della nostra intelligenza e arrivare alla superintelligenza. Questo è un tema che, per esempio, nell'ambito della futurologia oggi si comincia a discutere molto. C'è chi teme che l'intelligenza artificiale, la crescita, la corsa dell'intelligenza artificiale nei prossimi decenni porterà a raggiungere la cosiddetta superintelligenza, cioè un'intelligenza artificiale superiore alla nostra, e se noi non corriamo ai ripari, se anche noi non riusciamo in qualche modo a potenziare le nostre capacità cognitive, ne saremo sconfitti, verremo ridotti in schiavitù, come nel film Matrix, oppure addirittura annientati da questa nuova specie intelligente che noi stessi abbiamo creato. E questo è appunto uno scenario che va perfettamente in quella direzione, evoluzione e catastrofe. Cioè, se vogliamo evitare la catastrofe, dobbiamo evolverci in quella stessa chiave, che io, diciamo, guardo con interesse dal punto di vista valutativo, da studioso, diciamo. Dal punto di vista valutativo guardo anche con un po' di preoccupazione, perché mi sembra che vada nella direzione, no, che invece di cercare di rendere le macchine più umane, l'uomo debba diventare sempre più simile a una macchina, quindi sempre più svincolato dalle sue caratteristiche peculiari, quindi promuovere un tipo di ragionamento logico sempre più razionalista, che è quello che appunto l'ideologia transumanista in qualche modo propone. Da questo punto di vista c'è però, secondo me, anche la possibilità di trovare delle soluzioni alternative. perché io sono dell'idea che effettivamente la nostra specie sia destinata in qualche modo a superare i propri limiti. Nick Bostrom, che è un filosofo molto influente nella Silicon Valley, è uscito in Italia anche questo suo libro l'anno scorso, Superintelligenza, che parlava appunto del tema di cui vi ho accennato prima, è uno di quelli che sostiene che la specie umana debba obbligatoriamente evolversi a livello della postumanità, altrimenti, anche qui un scenario catastrofico, nel giro dei prossimi 30, 40, 50 anni verrà ridotta all'estinzione, da una superintelligenza artificiale, oppure verrà ridotta all'estinzione da un evento imponderabile di tipo cataclismatico, spaziale, esplosione di una supernova lontana o cose di questo genere, o verrà distrutta dal suo stesso progresso tecnologico. Nick Bostrom li chiama i rischi esistenziali. Questo è un tema che nell'ambito del Future Studies si sta sviluppando molto negli ultimi decenni, anche nel nostro istituto ha cominciato a occuparsene, cioè capire quali sono i rischi che lo sviluppo tecnologico dell'uomo vengono posti da questo sviluppo tecnologico e che possono compromettere la sua sopravvivenza nei prossimi decenni, nel corso di questo secolo. Secondo Bostrom, il rischio principale per l'umanità non è quello di estinguersi, ma è quello di non raggiungere lo stadio postumano. Cioè, secondo lui, l'umanità, se resta in questa situazione attuale, è in qualche modo già di per sé condannata dallo scenario che lui chiama della stagnazione, cioè uno scenario in cui non c'è un'evoluzione progressista tecnologica. È uno scenario di per sé apocalittico, perché in qualche modo nei prossimi 100-200 anni accadrà necessariamente qualcosa e la nostra specie comunque, se non si estinguerà, comunque sarà ridotta, come accade a quanto sembra diverse centinaia di migliaia di anni fa, quando un evento catastrofico ancora oggi non conosciuto ridusse la specie umana a pochissime centinaia di esemplari, da cui poi invece per fortuna la nostra specie è tornata a riprendersi. Una cosa del genere in una civiltà tecnologica, una civiltà così interconnessa come la nostra, avrebbe effetti estintivi, è inutile nascondercelo. Quindi secondo Bostrom l'unico modo per contrastare il rischio esistenziale, oltre naturalmente dal punto di vista dello studio di capire quali possono essere, è quello di fare questo salto evolutivo. Però ecco, quello che secondo me è interessante su questo, che spero di aprire con voi il dialogo, è che a me mi lascia perplesso, è il fatto che la maggior parte di questi rischi tecnologici, questi rischi esistenziali sono connessi proprio al rischio tecnologico, cioè sono connessi a quello sviluppo, quel progresso che Bostrom vede come la nostra unica ancora di salvezza. Quindi mi sembra che sia una sorta di cortocircuito a un certo punto, perché secondo Bostrom, per esempio, per diventare specie postumana dobbiamo adeguarci all'idea dello human enhancement, cioè del potenziamento umano. Il potenziamento umano significa utilizzare le tecniche dell'ingegneria genetica per migliorare le nostre caratteristiche, diciamo, biologiche, quindi vivere più a lungo, quindi superare i nostri limiti cognitivi, quindi aumentare la nostra intelligenza. Aumentare anche la nostra capacità di percezione, quindi superare i limiti dei cinque sensi e espanderci da qualche punto di vista multisensoriale per riuscire a capire il mondo in cui ci stiamo sviluppando. Ma tra i rischi esistenziali che i centri di ricerca che sono nati sulla scia di questo tema, per esempio quello a Oxford, il Future Humanities Institute, oppure in America c'è il Future Life Institute che lavorano su questo tema, tra i rischi esistenziali c'è proprio il problema di una ingegneria genetica fuori controllo, tant'è che appunto alcuni diversi ricercatori l'anno scorso, nel 2017 mi pare, ad Asilomar hanno lanciato un allarme che ha portato a questa moratoria sulle tecniche di editing genomico, la cosiddetta CRISPR, che oggi viene utilizzata in tanti ambiti di ricerca e che a quanto sembra all'inizio, alla fine dello scorso anno è stata anche utilizzata in alcuni bambini, in alcuni embrioni che poi hanno portato alla nascita di alcuni bambini in Cina, e questa moratoria riguarda la possibilità di non utilizzare queste tecniche sulla cosiddetta linea germinale, cioè la linea genetica le cui modifiche vengono trasmesse poi alla prole, perché non conosciamo gli effetti collaterali di questa tecnologia. Questo potrebbe essere un rischio esistenziale, potrebbe esserci un effetto collaterale ignoto. Pensate a un film di fantascienza apocalittico come I figli degli uomini, in cui a un certo punto, per esempio, l'umanità non riesce più ad avere figli. Quello potrebbe essere un rischio che non possiamo immaginare in questo momento. L'umanità, a causa di un esperimento genetico andato fuori controllo, per esempio diventa sterile. Questo è un rischio esistenziale, per esempio. Oppure la geoingegneria è un progetto di potenziamento, cioè utilizza la tecnologia per rendere il pianeta più adatto a noi, cioè più adatto a un progresso tecnologico senza controllo, piuttosto che intervenire sui nostri modelli industriali che stanno distruggendo la biosfera. La proposta è quella di trasformare la biosfera per adattarla alle nostre esigenze, e quindi appunto lanciare nell'atmosfera un viscolo che possa riflettere la luce del sole per raffreddare il pianeta, oppure altre soluzioni ancora più radicali, addirittura lanciare gli specchi in orbita, e così via. Che sono, diciamo, delle soluzioni, quelle che è poi il critico di internet, di questa chiave del progresso, che è Morozov, e viene Morozov ha chiamato il soluzionismo tecnologico, cioè un'ideologia che ormai si è diffusa nella Silicon Valley, e quando parlo di Silicon Valley non parlo soltanto della Silicon Valley californiana, ma in generale questo mondo delle start-up, delle grandi start-up che vogliono cambiare il mondo. Il soluzionismo tecnologico sostiene che tutti i problemi della nostra umanità siano problemi tecnologicamente risolvibili, sono problemi ingegneristici. In questo caso anche il problema della morte, come viene chiamato, non è altro che un problema, cioè qualcosa che a un certo punto con un approccio tecnologico noi saremo in grado di sconfiggere. E appunto le aziende come Calico di Google, oppure come la Science Foundation, che nella Silicon è nata qualche decennio fa con come si chiama, Aubrey de Grey, che è uno dei guru dell'immortalità, attraverso appunto l'utilizzo dei big data nell'ambito della biomedicina, dell'ingegneria genetica, ne troveremo il modo anche di risolvere questo problema, che non è altro che un problema. Vado verso la conclusione, perché penso di aver già messo troppa carne a cuccia, no? E magari su questo appunto confrontarvi con voi. Ci sono delle proposte, appunto, perché io non sono neanche un dubbista assolutamente, non mi considero tale. Io credo in una certa idea di progresso, non di quella, diciamo, che poi è stata veicolata negli ultimi 100 anni della modernizzazione, che ormai abbiamo visto che non era un'idea perseguibile, e credo ovviamente nella possibilità che la tecnologia possa e debba migliorare la nostra civiltà, e credo anche che la nostra civiltà, la nostra specie, abbia tutto il diritto in qualche modo, no, di prendere il proprio destino. Insomma, poi queste sono scelte individuali, chi crede in certe fedi magari sarà più critico, però perché no, voglio dire, perché non cercare in qualche modo di migliorare, per esempio evitare certe malattie, per esempio migliorare il destino della nostra prole, dei nostri pronipoti, così via. Però ecco, io credo che questa cosa non debba essere in conflittualità con la nostra biosfera. Il progetto transumanista, che a me mi interessa molto, studiato, abbiamo pubblicato anche con l'Istituto diverse ricerche al riguardo, e peraltro conosco anche molte delle realtà transumaniste a livello internazionale, va invece nella direzione opposta, cioè dice: noi dobbiamo porre l'uomo all'apice di tutto, non solo della biosfera, ma all'apice di tutta la creazione, se vogliamo usare, diciamo, una metafora religiosa. L'interesse dell'uomo, la sua sopravvivenza, deve avere la priorità su tutto. Io credo che invece, su questo spero che magari appunto di confrontarmi con voi, di avere anche qualche stimolo, anche spero, che vada in questa direzione. Lo sviluppo dell'uomo non può non andare pari passo con un rispetto della biosfera. Quando per esempio pensiamo ai progetti di colonizzazione di Marte, a me mi lasciano sempre molto perplessi, perché vedo quest'idea che l'uomo deve espandersi nell'universo sempre in una chiave di distruzione di quello che trova sulla sua strada. Ora, Marte si può dire un pianeta geologicamente morto, biologicamente ancora più probabilmente, ma l'altra volta, per esempio, moderando un dibattito alcuni ingegneri aerospaziali che lavorano alle sonde su Marte, avevo fatto questa domanda e ho detto: ma se noi trovassimo un batterio sotto la superficie marziana, che cosa faremo? Dovremmo rendere Marte come l'Antartide, cioè un pianeta in qualche modo in isolamento, dove soltanto poche stazioni scientifiche possano svilupparsi, o no? E là, insomma, a un certo punto mi sono detto, sì, vabbè, noi vogliamo cercare la vita su Marte, ma anche se la troviamo, l'obiettivo imprescindibile è quello della colonizzazione, quella della terraformazione nel corso dei prossimi secoli, nel corso dei prossimi millenni, perché quella è la direzione che la nostra evoluzione ci spinge a immaginare. Non sono convinto di questa cosa qui. Io, per esempio, mi invito, e chiudo veramente, a leggere un testo interessante, che è quello che è uscito recentemente, forse l'anno scorso, di Timothy Morton, Iperoggetti. È un libro, diciamo, che poi fa anche una serie di riflessioni filosofiche un po' complesse, come sempre da parte dei filosofi postmoderni, difficili a volte da seguire. Però Morton, secondo me, dà una direzione interessante. Cioè, lui dice, non scindiamo questa concezione dell'uomo da quella della natura, di cui noi siamo in qualche modo anche parte integrante. E la scelta, per esempio, del titolo La fine dell'uomo va, secondo me, nella direzione che dice Morton. Cioè, Morton dice, noi, per esempio, la fine del mondo è un concetto sbagliato, perché il mondo in realtà già è finito, noi l'abbiamo ovviamente trasformato, e non possiamo pensare che esista un mondo che è uno sfondo della nostra attività. Il mondo siamo noi, in qualche modo, e il mondo peraltro va avanti anche senza di noi, come è andato avanti prima di noi per tanti milioni di anni, miliardi di anni. E quindi dice Morton, noi dobbiamo immaginare, secondo la filosofia di cui lui è esponente, questa ontologia orientata agli oggetti, noi dobbiamo immaginare il mondo come una serie di oggetti che a volte la nostra specie non è neanche in grado di rappresentarsi, con cui non è neanche in grado di interagire. Il riscaldamento globale è un esempio che lui pone. Il riscaldamento globale è un fenomeno su scala addirittura geologica, che il singolo essere umano, nella sua breve vita, non può in nessun caso riuscire a comprendere, ma nonostante tutto è un fenomeno che avviene, che noi in qualche modo dobbiamo essere in grado di affrontare. Allora Morton dice semplicemente, abbandoniamo questa dicotomia uomo-natura che è stata tanto deleteria, rendiamoci conto che noi siamo noi stessi natura, ma non facciamo neanche quelle concezioni invece dell'ecologia radicale, sbagliate, per cui è meglio che l'umanità scompaia, perché anche noi stessi in qualche modo siamo utili a una certa parte della natura. Se noi scomparissimo porteremmo all'estinzione tantissime altre specie viventi, così come la nostra il nostro sviluppo sta portando oggi all'estinzione di tante specie viventi, e lui dice, immaginiamo un progresso della specie umana che sia in una chiave, diciamo così, unitaria, come lo faceva, come immaginava Lovelock, James Lovelock, con l'ipotesi Gaia. Cioè, immaginiamo una biosfera, un'ecosfera dove tutto interagisce, tutte le cose sono connesse in qualche modo, e quindi il nostro filo non può esistere una postumanità che non porti con sé in questo suo viaggio verso il futuro anche tutte le cose con cui siamo connessi. E gli iperoggetti cercano di suggerire proprio questa visione, cioè delle cose come appunto la biosfera e le trasformazioni della biosfera, di riscaldamento globale, oppure pensiamo ai processi su scala geologica, la formazione di combustibili fossili e così via, che fanno parte di noi, fanno parte del nostro presente e faranno parte del nostro futuro. Il film che vedremo questa sera, che viene la trasposizione della trilogia di Area X, il primo volume della trilogia di Area X di Jeff Vandermeer, è proprio una rappresentazione di questa teoria. Noi possiamo immaginare, probabilmente andremo, se non prenderemo delle contromisure, andremo incontro a un momento in cui la nostra biosfera uscirà completamente dalla nostra capacità di comprensione. Gli iperoggetti che noi stessi stiamo creando ci sfuggiranno di mano, il mondo andrà avanti, ma noi non saremo più in grado di comprenderlo. Non è un mondo in cui noi non riusciamo a sopravvivere, come appunto è possibile in alcuni casi sopravvivere nell'area X di Vandermeer, ma è un mondo che noi non riusciamo più a capire, un mondo che va avanti senza di noi, e questo sì è il fine dell'uomo, ma in cui le nuove creature sono dei iperoggetti, cioè sono le creature che vivono in più dimensioni, che vivono al di fuori della nostra limitatissima capacità di comprensione multisensoriale, cinque sensi, le quattro dimensioni di cui è, diciamo, il composto universo che percepiamo. Esiste molto di più fuori da questa realtà che fa parte della nostra realtà sensoriale. Se noi non capiamo questo, la nostra evoluzione sarà destinata, diciamo, a scontrarsi molto più prima che poi con l'area X, con l'annientamento, che è appunto il titolo del romanzo di Vandermeer, che è rappresentata appunto dall'area X e dagli iperoggetti che vengono composti. Ora su questo chiudo davvero e magari sentiamo un po' qualche spunto di discussione. Grazie intanto per l'attenzione. i pericoli esistenziali li hai ben delineati, il rimedio non so, non mi hai convinto pienamente, o meglio, cioè volevo solo rilanciare la palla, cioè nel senso di dire che cioè, dobbiamo porci il problema del capitale oceano, insomma, e quindi cioè, del cambiamento delle strutture, soprattutto di produzione dell'energia, eccetera, visto che non vogliamo migrare su Marte con Elon Musk e famiglia. Allora, secondo me, il movimento oggi che prende in carico il pericolo di estinzione della specie umana, e l'ONU dice che abbiamo 12 anni di tempo per l'ultimo rapporto per correggere la rotta, è Extinction Rebellion, che si sta veramente diffondendo in tutta Europa a partire dal suo epicentro londinese di Manchester. Ormai c'è già Berlino, c'è Monaco, ha varcato l'oceano, c'è Sydney. What the fuck? Perché non facciamo Extinction Rebellion a Milano, addirittura Italia, se siamo ambiziosi, o Europa, o che cazzo ne so. Però insomma, facciamo Extinction Rebellion, perché ha tre principi fondamentali in cui penso ci possiamo credere, che uno è costringere i governi ad agire sulla base della decarbonizzazione, due, azione non violenta di massa, cazzo, infatti hanno preso centinaia di persone, tre, soluzioni partecipate di democrazia partecipata al post-capitalismo, insomma, chiamiamolo così, se vogliamo essere utopici e non distopici, che ce l'ho sui coglioni, perché la distopia alla fine è figa, ma poi passivizza. Ne abbiamo viste 250, sappiamo come possiamo morire in 100 morti, però cerchiamo di sopravvivere. Grazie. C'è una mano alzata, sì. Posso parlare? Prego. Allora, premetto che io faccio di mestiere la giornalista scientifica, cioè quella che ogni giorno mi mette là l'articolo e dice però interessante. Quello che trovo, peraltro anche nella divulgazione scientifica, ma quello che a me mi fa sempre un po' specie, dei discorsi dei futurologi o in generale di chi fa previsioni scientifico-tecnologiche, e che mi pare sempre che manchi l'aspetto politico di questa cosa. Per cui, e non solo, ma c'è anche un immaginario interessante, cioè il futurologo normalmente, o anche chi scrive di fantascienza, generalmente porta un'idea che è la massificazione, cioè si dice diventeremo tutti postumani, quindi ci estingueremo, oppure nessuno saprà raggiungere l'intelligenza delle macchine e quindi moriremo. Però il problema è che noi siamo degli organismi biologici e che, come sappiamo, la natura non segue le leggi della fisica e dell'astrofisica, che purtroppo sono quelle più conosciute da quel tipo di previsori, ma segue le leggi del caos. Quindi tutt'altro modo di operare, cioè proprio tutta un'altra cosa. In più siamo 6 miliardi, quindi io, anche facendo la peggiore delle ipotesi in cui poniamo c'è un'intelligenza artificiale che fracassa il mondo, non posso non pensare che prima fracasserà quale mondo? Il mondo che l'ha prodotto, cioè il mondo dei capitali, perché come sappiamo quel tipo di cose, transumanesimo, tecnologie, cioè sono mondi dei capitali, non dei poveracci. E faccio il confronto che noi, essendo comunque una specie biologica, dei 6 miliardi, ci saranno sempre almeno minimo 1 miliardo di persone, facciamo anche 500 persone, che come tutti noi continuano a scopare, riprodursi, fare divertirsi, eccetera. Perché siamo fatti così? È per questo che io non riesco assolutamente a dare neanche mezzo credito scientifico ai progetti e alle fantasie di quel tipo. Tutto qua. Sono molto fiduciosa. Non so se tanto stavo. Provo solo a precisare alcune cose che magari prima sono andate un po' rapidamente. Rispetto al titolo di questo ciclo, noi l'abbiamo chiamato La fine dell'uomo, che è discutibile come tutte le scelte, ma è diverso dalla fine dell'uomo o dalla fine dell'umano, che non è ovviamente una scelta di genere, ma cercava, senza diciamo così richiuderci sul WASP e così, però cercava di significare che quella prossima è la fine dell'uomo, inteso come l'essere maschile apicale di un tipo definito di società, cioè quel tipo di evoluzione che ci sta portando inevitabilmente alla catastrofe. Quindi è chiaro che se da un punto di vista di impegno quotidiano, tanti di noi lavorano per esempio con l'orizzonte di una COP26 nel 2020 a Milano, piuttosto che di altre forme di resistenza sul territorio, e senza l'ambizione di pensare a un piano B, diciamo così, su una scala globale che resta al momento al di fuori della nostra portata, però diciamo così che c'è un binario parallelo che spesso non ci concediamo il tempo e la pazienza di indagare, che è quello della ricerca degli scenari possibili. Cioè, nel senso, mentre noi portiamo avanti le nostre battaglie, come dire, che di fronte a fatti che diventano sempre più grandi e della nostra dimensione esperienziale, potremmo riassumere nella critica, appunto, prima Alex citava il capitalocene, ma è proprio nella critica dell'antropocene, intesa come lettura delle trasformazioni presenti, quelle che vanno dai cambiamenti climatici a tutto il resto, l'acidificazione, la temperatura, però che sostanzialmente sono la trasformazione irreversibile su scala globale della fisica e della chimica del pianeta. Ecco, di fronte a questo tipo di scenario che è conclamato, noi rifiutiamo una lettura di responsabilità unificanti, cioè esattamente come l'industrializzazione ha vissuto di soggetti individuali e collettivi che l'hanno fatta e di soggetti che l'hanno subita, di zone del mondo che l'hanno vissuta in una fase, come dire, pioniera, e persone che la stanno vivendo con conseguenze ben più pesanti oggi. Allo stesso modo non esiste nessuna equiparazione possibile delle responsabilità. Decostruire questo tipo di discorso pubblico, che è quello che sta trasformando la questione ecologica da una battaglia eminentemente politica ad un discorso eminentemente di mercato, se pensate ai mercati derivati, ai carbon trade in sede delle coppie internazionali, piuttosto che al ruolo delle assicurazioni nella scommessa, diciamo così, sulla gestione post catastrofe, sulle gestioni post sisma, come dire, su quello che avviene dopo la dimensione della crisi. Ovviamente nel rifiutare questa cornice, nel, come dire, attivare dei percorsi di critica, di conflitto, così, però c'è anche un percorso di ricerca che in qualche misura, appunto, come dire, viene sempre dopo l'emergenza del quotidiano, la dimensione solidale, la costruzione, appunto, di un percorso di pressione pubblica. In questa cornice, quello, un po' la nostra domanda di ricerca, quello su cui un po' inviterei, stimolerei anche il confronto, è: di fronte a scenari che tutto sommato ciascuno di noi con livelli e sensibilità diverse, però spaventano un po' tutti, prima tu mi citavi la teoria di Gaia di Lovelock, che negli anni 70 tutti pensavano fosse una piacevole fricchettonata, e poi Lovelock, però questo sarà tema del quarto incontro, però dell'autodistruzione nucleare, però anche, come dire, si è fatto poi a sua volta promotore di una come dire, di uno splafonamento sulla dimensione nucleare, così come l'ecologia profonda, certe forme di come dire, razzismo conservativo, cioè di fronte alle derive da una parte di mercato e dall'altro psicopatologiche di alcune forme di questa sensibilità, oltre alla costruzione di un'attivazione di movimento, se vogliamo, c'è un bisogno di indagare degli scenari per cercare, passatemi il termine, non so se questo sia possibile né auspicabile, una sorta di soluzione democratica, cioè quale può essere la forma della transizione, anche se questa poi è una parola anche qui abusata per via delle transition town, che poi sono una filosofia politica particolare, non da tutti apprezzata, però all'interno di questa transizione che c'è, dov'è che dobbiamo andare noi a cercare i germi di una resistenza che sia anche creazione, come dire, di una capacità non solo di adattamento ma di costruzione di alterità? Ultimissima cosa, non so se tutti quanti hanno avuto l'occasione di vederli, per ciascuno di questi di queste date stiamo proponendo dei materiali di avvicinamento sulle connivenze tra Marx e Darwin, sulla dimensione del disagio psichico come cogente alla fase così della crisi, su, come dire, tutta una serie di materiali spuri, tra cui anche un articolo di Roberto, che possono essere prima e dopo gli incontri del materiale aggiuntivo per costruire questo folder. Allora, innanzitutto non è un caso che questo titolo, La fine dell'uomo, inizi con un primo appuntamento sull'evoluzione, perché questo ci interroga sul fatto che la fine dell'uomo non è solamente qualcosa che si sta di fronte come rischio, ma può essere anche qualcosa che abbiamo alle spalle, come vi è già avvenuto. Perché, e questo anche perché in qualche modo due secoli fa con Darwin è stato ribaltato completamente il paradigma di come era stato concepito l'uomo fino ad allora. Perché l'uomo, appunto, la ragazza diceva, parlava della natura che è governata dal caos. Beh, con Darwin abbiamo questo, abbiamo la legge del caos, non c'è più nessun disegno, nessun progetto, nessuna possibilità di programmare qualcosa perché l'evoluzione ci porterà a qualcosa di sicuramente più evoluto, di progresso, per cui sarà un risultato maggiore di quello sempre in una specie di scala evolutiva. No, questo non c'è. Abbiamo solo la possibilità di mutare. Questo ci dà la natura, perché noi siamo natura. E Darwin ha rotto definitivamente quella barriera tra natura e cultura, perché anche la cultura è natura, è tutto materiale. Ed è su questo che noi dobbiamo ragionare, se vogliamo affrontare, poi certo possiamo opporci politicamente, faremo tutto il possibile, ma dobbiamo anche cambiare il nostro modo di pensare, perché siamo ancora legati a una vecchia concezione che vede l'uomo oltre che come centro dell'universo, ma questo ci avevo già pensato Galileo, Kepler, ma anche l'uomo come colui che l'evoluzione lo ha premiato facendogli passare la materia a diventare a un certo punto qualcosa di spirituale, cioè il pensiero come qualcosa di slegato alla materia. No, noi siamo ancora soggetti alle regole e alle leggi della natura che sono materiali. E questo è forse il compito più difficile che abbiamo di fronte, cambiare il nostro pensiero. Poi il resto, certo, se viene la fine del mondo perché viene un asteroide, piuttosto perché il clima diventa insopportabile, su questo non è che possiamo farci molto. Forse, come diceva un antropologo, Ernesto Di Martino, all'uomo aspetta sempre il compito di cominciare ogni volta da capo, se ci va bene. Volevo aggiungere dunque sugli spunti di discussione che erano usciti fuori, per esempio che il capital chain, insomma, come vogliamo chiamare, sì, sono abbastanza d'accordo, cioè per esempio l'avevo accennato proprio abbastanza, non dicevo che non sono d'accordo con la visione di Bostrom del soluzionismo tecnologico, secondo cui appunto i rischi del progresso tecnologico possono essere affrontati sempre con lo stesso modello che li produce. Questo mi sembra che appunto sia il cortocircuito che noi dobbiamo affrontare, però non l'ho voluto mettere in quella chiave, ma noi per esempio nel nostro istituto abbiamo pubblicato un volume che si chiama Antropocene, l'umanità come forza geologica, che ho curato con Francesco Verso, che è un editore di fantascienza, dove abbiamo messo 5 racconti di fantascienza e 5 saggi di studio sull'antropocene, e c'è un saggio di Gennaro Fucida, che peraltro è qui in sala, che ha analizzato proprio il rapporto tra capitalismo e produzione, diciamo, delle merci, e il modo in cui trasforma il mondo. Saprebbe dirlo molto meglio di me, ma sono sicuro che non vorrà dire neanche una parola. Il modo, cioè, in cui la produzione, l'abbondanza di merci che è nata soprattutto nel secondo dopoguerra è in qualche modo uno degli elementi scatenanti dell'antropocene, cioè di questa epoca in cui la nostra specie è riuscita a sedimentarsi addirittura nei strati geologici, tale per cui tra un milione di anni, se una specie aliena atterrerà sul nostro pianeta, troverà la traccia della nostra esistenza analizzando semplicemente appunto i sedimenti, dove ci troverà la radioattività, dove ci troverà le quantità abnormi di combustibili fossili bruciati in atmosfera, dove troverà tracce della plastica, e dove troverà insomma tutte le tracce della nostra impronta materialista, possiamo chiamarla capitalista, insomma di produzione di merci, che caratterizza l'epoca attuale. Ora, su questo è vero, la futurologia e i future studies generalmente sono avvalutativi, cioè cercano in qualche modo di essere una scienza. Io non sono d'accordo, perché ovviamente non la è, non credo neanche nelle capacità predittive dei big data e di tutte queste nuove tecniche che stanno emergendo, riuscire davvero a incanalare i cambiamenti dell'umano in qualcosa di prevedibile, come la psicostoria di Asimov, se vogliamo restare alla fantascienza. Però ci sono anche altre strade, per esempio io ricordo John Harvey, che è morto un paio di anni fa, era un professore dell'università di Lei Sester, non sono convinto, però in Inghilterra ho avuto il piacere di conoscerlo poco prima che ci lasciasse, e lui aveva per esempio fondato un istituto molto importante, l'Institute for Social Futures, in cui appunto dalla parte diciamo di studio dei scenari futuri affiancava una critica anche molto ragionata, molto, molto militante, anche molto convincente, come cambiare le cose, cioè come evitare che quello scenario si trasformasse in realtà attraverso la nostra azione politica, innanzitutto nel presente, oppure come, quali sono invece gli scenari che la nostra società democraticamente, sempre in modo inclusivo, deve cercare di realizzare. Questo secondo me è un aspetto dei future studies che non è ancora molto approfondito, ma che io spero appunto in una chiave appunto di dibattito pubblico che anche il nostro istituto vuole cercare di costituire in Italia, si possa andare in una direzione diciamo di messa in discussione dei paradigmi attuali, senza quali non può esserci l'immaginazione del futuro, senza le quali il futuro viene colonizzato da un'unica visione del progresso, della modernizzazione, che già oggi ha dimostrato di non essere quella che vogliamo, che però in alternativa produce solo delle distopie, sono d'accordo, le distopie ci hanno portato le palle, ma se vengono prodotte è perché non siamo più in grado di immaginare scenari futuri diversi da quelli che la visione dominante del progresso che ha fornito in queste ultime decenni. La futurologia deve, secondo me, cercare di superare questa concezione, in qualche modo superare se stessa, perché anche la futurologia è figlia di quella concezione in qualche modo. Allora, più che una domanda, proprio intervento collegandomi a Darwin, nel senso che in conseguenza diciamo delle scoperte diciamo di Darwin, una delle teorie insomma degli ultimi decenni riguarda le estinzioni di massa precedenti, cioè il fatto che sappiamo tutti che siamo un po' vicini alla stessa estinzione di massa, anzi ci siamo già dentro, le cinque precedenti sono state quasi definitive, quasi devastanti per l'intera ecosistema, e in particolare quella la quinta più famosa dei dinosauri comunque ha diverse teorie dietro, in particolare il famoso asteroide, meteorite, eccetera, però combinato con una incapacità di chi dominava diciamo la Terra allora di sopravvivere a questo impatto, quindi un incrocio fra aspetti esterni e aspetti interni di metabolismo, di gigantismo, eccetera. Quindi da questo punto di vista, non sono uno scienziato, quindi sto giusto così. Vediamo l'angolo di dati. Sì, no, volevo precisare che i dinosauri non si sono estinti perché cioè, sono esatto, sì, okay. No, quello di bottiglie, sì, vabbè, se no quasi. Due la forma si sono estinti. Sì, certo. Sì, ma non solo per il gigantismo, ma quelli piccoli proprio. Hanno seguito il passo, ai bambini, eccetera, ok. Quindi da un lato volevo lanciare questo sasso negativo sul su base scientifica, su magari la nostra incapacità futura di a livello anche di metabolismo eccetera di sopravvivere a un fenomeno naturale di questo tipo, come per esempio ipotizzavi tu, un clima non più sostenibile, eccetera. Quindi magari forse non è soltanto c'è più che l'aspetto politico, quello scientifico è ancora più importante da questo punto di vista. Cioè il fatto che forse anche cambiando politiche non siamo più in grado a livello di specie di sopravvivere o di rimanere dominatori per lungo tempo da questo punto di vista nel futuro. Un sasso positivo che voglio lanciare è totalmente utopico, quindi non basato su aspetti scientifici ma più letterari, perché leggevo prima un articolo di Mattia Salvia sulla timeline sbagliata in cui ci siamo trovati. Lui ipotizza, scherzando, che è un esperimento fallito del CERN di Ginevra ci abbia portati su una timeline alternativa a quella reale, quindi siamo paralleli a un mondo reale. Infatti adesso c'è Trump che diventa presidente degli Stati Uniti, Bolsonaro, quindi un fascista che torna in presidenza. Quindi il sasso positivo che voglio lanciare, forse magari per qualche anno torneremo sulla timeline giusta con un altro esperimento del CERN. Sì, no, aspetta, prendi questa cosa, però sai. Sì. Prima sì, era sì, quella sì. Su Bruce Willis. No, esatto. E però guarda che appunto il soluzionismo tecnologico dice cioè, questo, cioè è vero, noi stiamo cambiando l'atmosfera e in questa fase, in questa condizione umana noi non sopravviviamo. Però loro dicono, ma noi possiamo anche cambiare noi stessi, cioè oltre alla geoingegneria c'è anche chi dice ingegnerizziamo l'uomo, era per esempio un tema di un romanzo di Kim Stanley Robinson, un titolo che hanno fatto, si chiama 2112, lui dice a un certo punto l'uomo tramite ingegneria genetica si trasforma se stesso per adattarsi a climi completamente diversi, addirittura esseri stati potenziati abitano le lune di Giove, di Saturno, non mi ricordo, esatto, di Titano. E quindi in qualche modo dice, invece per esempio di terraformare gli altri pianeti per renderli più adatti a noi, trasformiamo noi stessi per adattarci a qualsiasi clima, a qualsiasi ambiente, e questo ci permetterà appunto di invadere, diciamo, di espanderci in tutto il resto dell'universo. E in questo caso il cambiamento climatico diventerebbe l'ultimo dei nostri problemi. Per noi, per il resto della biosfera, poi insomma, è un altro problema. Sull'articolo poi l'avevo letto, sì, che è molto simpatico. Finiva con Bondo di uno spirito, ma d'altro canto, insomma, purtroppo non è lui stesso quello che diceva, non è così, perché in realtà lui addirittura molto più distopicamente dice probabilmente la parte di progresso sociale della nostra storia è soltanto una parentesi e siamo costretti ad andare da parentesi in parentesi, ma l'umanità in qualche modo è sempre dominata da pulsioni distruttive, dominatrici. Questa è ancora la visione ancora più catastrofista di quello di cui stiamo parlando stasera. Tento anche un'altra risposta. Il motivo per cui noi non tolleriamo, diciamo così, il primato della tecnologia rispetto alla dimensione politica, però non è, come dire, il tasso di pericolosità dell'asteroide rispetto al despota o della, come dire, della cogenza del cambiamento climatico rispetto ad altri tipi di pandemie ipotizzabili. Il tema è che la soluzione tecnoscientifica in questa cornice di realtà, cioè nel senso in un mondo che funziona attraverso queste regole, questi ingranaggi, come dire, con queste figure sociali, per ciascuna delle soluzioni possibili realizza una dimensione come dire, che è esclusiva e quindi necessariamente escludente, cioè che non può essere per tutti, no? Nel senso trova una sua sostenibilità secondo un sistema di regole che evidentemente non rispecchia la nostra idea di desiderabilità. Adesso citavo due parole un po' a casaccio, però per esempio sul discorso della pandemia, la capacità, senza arrivare all'uomo che si trasforma in DNA per andare ad abitare Titano, perché poi rischiamo, tra virgolette, di riportarci alla barzelletta prendendo l'iperbole più apparentemente lontana, però la costruzione di una super resistenza all'influenza annuale, come invece alla mucca pazza, l'influenza A, alla pandemia di turno, chiaramente dobbiamo capire, è una soluzione per tutti e quindi quali sono le ricadute anche di un uomo che comincia, tra virgolette, a rinunciare alla malattia? È una domanda. Oppure è una soluzione per chi se la può permettere, quindi che acquisisce un valore di mercato come le cure contro i tumori oggi, in cui il valore di mercato di certe cure si sono completamente slegati, come in ogni mercato finanziario, dal valore reale della materia, del suo costo di ricerca e via discorrendo, perché attraverso la scarsità si crea valore. Allo stesso modo anche altri tipi di soluzioni tecnologiche sganciate da un approccio che non voglio definire etico, ma sicuramente fortemente politico, rischiano di riprodurre, portate all'estremo, nel senso che le conseguenze in quel caso sono, come dire, una punta più spaventosa, le stesse identiche mostruosità del nostro presente. È per questo motivo che non vogliamo tanto fare la gara, diciamo così, tra una guerra, come dire, locale e invece l'impatto globale di un fattore esogeno rispetto ai tanti, come dire, alle tante ai tanti vulcani reali e politici che esplodono in giro per il globo, ma dobbiamo cercare una soluzione che rispecchi la desiderabilità che vuole in qualche misura andare poi a costruire all'indomani. Cioè la domanda sull'evoluzione catastrofe è una domanda sul mondo che vai a costruire il giorno dopo. Se sulla scala locale costruisci delle resistenze che però non riescono a collocarsi al di fuori, il momento di crisi, questo lo scrive anche Bifo in uno dei contributi, dice l'elemento unificante delle tante crisi che viviamo è quello dell'aumento del tasso del disagio psichico, cioè nel senso le nostre vite se trovano, se riconoscono nella diversità culturale, linguistica, generazionale, di appartenenza di vario tipo, un elemento unificante che riconosciamo è quello dell'aumento del disagio psichico, confrontato da tutta una serie di studi. Questo è un elemento attorno a cui, come dire, la paura profonda che innerva le nostre vite ci consiglia l'urgenza di un'evasione, e questa evasione è un'evasione che è per tutti, che è migliorativa, cioè che è anche liberante rispetto a questo disagio psichico, o è un'evasione che vive dentro la paura, perché è una rincorsa, come dire, ciascuno corre per sé al salvataggio, ecco, no? A una salvezza corale. Buonasera. Volevo chiedere un approfondimento sul un passaggio del suo discorso quando parlava di un'ipotetica terraformazione di un altro pianeta, nella quale lei aveva espresso, come dire, diciamo, una specie di desiderio, un desiderio che eventualmente, qualora noi ci spostassimo in un altro ecosistema, in qualche modo lo rispettassimo. A me è venuto in mente un passaggio di un testo di Bruno Cassi in un libro che si chiama Ultramar, in cui si spiegava, in qualche modo si narrava un aspetto delle conquiste dell'America che di solito viene sottostimato, cioè quello del diritto e dell'aspetto legale di questa operazione di conquista, nella quale si cercava di unificare in madre patria come venissero in qualche modo trattati gli indigeni che venivano sterminati puntualmente, e l'opinione pubblica nei paesi da cui arrivavano i conquistatori doveva in qualche modo essere informata e aggiornata. Dunque si creavano, come dire, degli schemi legali affinché queste conquiste venissero in qualche modo giustificate. A me piace molto la fantascienza, non riesco a non pensare alla conquista di un ultramar al di fuori della Terra se non in chiave parassitaria, cioè nel senso, se ci si sposta da un'altra parte, chiaramente si passa ad un altro stadio, diciamo, della specie umana, in cui si conquista uno spazio come si è stato fatto con le terre vergini dell'America e lo si distrugge. Mi viene in mente, per esempio, le malattie anche che sono state portate, quelle che hanno sterminato gli indigeni, più delle guerre, più delle armi, probabilmente. Dunque, qualora ci fossero magari anche le basi per cui magari su Marte esista un piccolo ecosistema, oppure non lo so, riuscissimo anche a colmare quella distanza di 4 anni luce che ci divide da qui all'esopianeta più vicino, che probabilmente è simile alla Terra, quello su Alfa Centauri. Mi chiedo se potessi fare un approfondimento su un ipotetico scenario in cui noi cerchiamo di trovare una via legale e sociale per cui questa cosa è accettata, e come secondo lei dovrebbe essere preservato un ecosistema da nostra presenza, che sarebbe inevitabilmente devastante. No, una domanda impegnativissima, che peraltro mi piacerebbe in realtà tirare anche alle agenzie spaziali internazionali, perché è una questione che quando io la pongo anche in questa chiave a chi se ne occupa, in realtà vedo che è un tema che loro non tocca minimamente la loro coscienza. Si parla di planetary protection, per esempio, che è il fatto che dobbiamo sterilizzare le sonde che poi andiamo sugli altri pianeti e altri corpi celesti per evitare che portino batteri e trasformino completamente gli eventuali ecosistemi che si trovino là. Quindi c'è questa visione, e io quando dico, appunto, se troviamo dei batteri su Marte o su Europa, per esempio, significa che quel pianeta va messo in protezione in qualche modo. Sì, questa è una concezione che oggi esiste, ma che si scontra con una visione che io credo sia dominante, forse alimentata dalla stessa fantascienza fin dalla sua nascita, fin da quando appunto la fantascienza immaginava l'espansione umana nello spazio, che è quella dell'inevitabile trasformazione dell'umanità in quella che Elon Musk o Stephen Hawking hanno chiamato la specie multiplanetaria, cioè la nostra capacità in qualche modo di abitare tutti gli ecosistemi, tutti gli habitat al di fuori della Terra. Oggi peraltro il diritto spaziale va contro questa cosa, perché il diritto spaziale nei trattati internazionali dicono, appunto, la Luna, per esempio, è come l'Antartide, è un territorio che non possiamo, che possiamo usare soltanto come analisi scientifica, non possiamo colonizzare, non possiamo. Però la Cina la sta colonizzando. Esatto, perché poi in realtà questi trattati, come la maggior parte dei trattati delle Nazioni Unite, purtroppo vanno bene finché non ci sono le potenzialità tecnologiche. Nel momento in cui le potenzialità tecnologiche ci mettono a disposizione questi mezzi, ovviamente diventa una lettera morta. E quindi adesso abbiamo il diritto spaziale rincorrere la Cina e altre realtà private che stanno cercando appunto di espandere la civiltà tecnologica sulla Luna, su Marte e poi chissà dove. E ci sono delle proposte di alcuni studiosi per trovare una soluzione, per esempio c'è chi propone, ho letto velocemente questo articolo recentemente, quindi non lo ricordo bene, ma c'è l'idea di dire dobbiamo in qualche modo considerare le risorse naturali come esseri viventi e quindi le dobbiamo gestire come se fossero protette da diritti umani universali, quindi significa che per esempio l'idea tradizionale di alcune compagnie spaziali private di andare sugli asteroidi e sfruttarne i materiali debba essere messa fuori legge, perché dobbiamo considerare quelle risorse naturali come insomma, un diritto umano universale che non deve essere violato, eccetera, eccetera. Oppure chi si ispira alle proposte delle riserve indiane d'America e dire ok, se troveremo una fauna locale, per esempio su Marte, anche in forma microbica, potremmo limitarci a creare delle riserve in cui farle continuare a esistere, nel frattempo tutto il resto del pianeta ce lo prendiamo per noi. Queste sono discussioni che al momento non fanno parte, diciamo, dell'agenda del dibattito delle agenzie spaziali, peraltro non fanno neanche parte dei dibattiti pubblici sul futuro spaziale, e invece credo che in qualche modo debbano essere poste, perché altrimenti appunto ci troveremo in una situazione di completo vuoto giuridico, politico e così via, in cui chiunque potrà fare quello che vuole sulla Luna, su Marte. C'è quella trilogia marziana, Kim sa ancora, di Kim Stanley Robinson, che a sua volta si ispirava a un racconto di Robert Heinlein, che era l'uomo che vendette la Luna, che parte proprio a questa idea, cioè dice da un lato ci sono i grandi affaristi che portano avanti la colonizzazione, in quel caso della Luna, nel racconto di Heinlein, nel caso di Robinson di Marte, e poi ci sono le persone che vengono spedite lì, che a un certo punto si ribellano a questo stato di cose e vogliono rendersi indipendenti perché vogliono in qualche modo salvare il mondo in cui si sono ritrovati in qualche modo ad abitare, quindi rendersi indipendenti non soltanto dal punto di vista politico ma anche da tutto quello che la Terra rappresenta, cioè appunto la visione predatoria dell'espansione umana nello spazio. C'è un modo per espanderci nello spazio senza aspetti predatori? Al momento non lo so, questa è una domanda, un dibattito che era nato peraltro mi pare all'inizio degli anni 70, quando C.S. Lewis e Arthur Clarke si incontrarono a un certo punto in un pub a Oxford. C.S. Lewis, che voi forse ricorderete, era un cattolico, protestante, insomma, molto vigoroso, diceva che era sbagliata l'idea della fantascienza di espanderci negli altri pianeti. Clarke, che era invece un grande scrittore di fantascienza, era stato tra i promotori della Purification Interplanetary Society, diceva no, ma che cos'è questa visione conservatrice tradizionalista, l'uomo deve necessariamente espandersi nell'universo. Lewis criticava questa concezione dal punto di vista religioso, diceva in qualche modo gli altri pianeti sono stati creati da Dio, in una concezione tradizionale sono addirittura abitati da potenze angeliche, in maniera che, diciamo, anche un po' scherzosa si rifaceva alla visione cosmologica di Aristotele, secondo cui appunto tutti i corpi celesti sono mossi da potenze angeliche, ma cioè, appunto Dio in qualche modo ci ha imposto di vivere su questo pianeta e non possiamo con il nostro peccato originale espandere questo peccato in tutti gli altri pianeti della creazione. Certamente è una concezione ovviamente situata dal punto di vista culturale, però se la depuriamo all'aspetto religioso, è secondo me un tema interessante, che prima di iniziare a colonizzare l'universo liberiamoci dal nostro peccato originale, cioè liberiamoci dal nostro atteggiamento distruttivo e predatorio nei confronti della biosfera nella quale ci troviamo a vivere. Altri spunti, interventi? Io non sono, come dire, molto dentro la materia, e per me è stato... Tu sei qua, tu già. Devi accendere. È acceso? Allora, è acceso. Dico, non sono molto della materia, quindi per me è un po' una novità. Per quanto riguarda l'idea di andare su questi pianeti e l'attenzione a possibili forme di vita così piccole, e l'attenzione la trovo onestamente quasi eccessiva, nel senso che allora cercavo di dire, forse probabilmente mi sfugge il concetto generale, dico è evidente che bisogna stare attenti a non essere così il comportamento, riprodurre il comportamento che abbiamo fatto sulla Terra, però poi stare attenti alle forme viventi così piccole lo trovavo eccessivo, onestamente. Se no a questo punto dico beh, allora la stessa cosa accade come dire sulla Terra, cioè come dire forse ti chiedo così gentilmente una spiegazione di questa attenzione, io direi per me come nella mia visione parossistica, cioè se essere così attento vuol dire qualcosa di altro, oppure cerco di, è evidente che per me vuol dire in un futuro mi immagino se ci dovesse essere una colonizzazione che non sia la stessa che c'è stata come dire in America e in altri, però stare attenti addirittura così, non so se per un discorso di pericolo che sfugge di mano la cosa, ecco, puoi spiegarmi, grazie. Comunque, da un lato, dal punto di vista meramente scientifico, ovviamente la necessità di proteggere una cosa che non conosciamo e che potrebbe spiegarci come nasce, come si evolve la vita fuori del nostro pianeta, questo è dal punto di vista meramente scientifico. Rischi sicuramente, perché potrebbe essere anche un batterio patogeno per la nostra specie, anche. Però dal punto di vista anche, direi, filosofico, tra virgolette, anche l'idea di superare la concezione. Come possiamo dirla, di vedere sempre l'uomo all'apice dell'antropocentro. Ora, se qualcuno va in giro a vedere sul mio sito Accademia, sulla mia parte di Accademia.edu dove metto i miei paper eccetera, troverà un articolo di diversi anni fa in cui c'è tutt'altro, in cui dicevo che la nostra specie, essendo l'unica specie intelligente che conosciamo all'universo, ha il diritto di deve essere difesa ed ha il diritto di espandersi nell'universo, perché forse l'universo in qualche modo ha bisogno di una specie cosciente e che possa in qualche modo interpretare l'universo. Ci sono degli indizi nell'ambito della fisica della teoria che vanno in questa direzione, e quindi diciamo, appunto, dobbiamo superare questa concezione, il complesso di Copernico che dice noi siamo mediocri, non contiamo niente, siamo alla pari di tutte le altre specie viventi. Poi gradualmente, spero sia una cosa positiva che uno cambia idea nel corso degli anni. L'ho vista in maniera critica questa idea, perché appunto anche come quello che diceva Timothy Morton nei suoi libri, dobbiamo guardare le cose, gli esseri viventi delle altre specie, le cose come parte di una realtà più grande, cioè non guardare semplicemente con la nostra visione antropocentrica quello è un batterio, non ha un'intelligenza mentre l'essere umano ce l'ha, e quindi è chiaro che se lo metto su una bilancia io sono là e quello non conta niente, ma guardarlo in un'ottica diciamo più complessa, probabilmente quel batterio ha avuto un effetto sulla storia geologica su scala di miliardi di anni del pianeta, e che io, essere umano che vivo qui da un milione di anni soltanto, intervenga, lo distrugga e trasformi tutto, in qualche modo significa appunto continuare con questa concezione specialista, anche questo è un altro aggettivo che possiamo usare, che non ci permetterà mai di liberarci da queste categorie cognitive che sono quelle alla base dell'antropocene, alla base della stessa estinzione di massa e così via. Quindi sì, è una posizione radicale, assolutamente, sono d'accordo, e peraltro appunto non condivisa dalla maggior parte delle persone che si occupano di protezione planetaria e ricerca su Marte e altrove. Però appunto se si vuole sposare questa concezione filosofica, che secondo me è una concezione che ci permette di fare un salto in avanti, sempre nell'ottica di un'espansione, di un progresso, di un potenziamento post-umano, ma rispettoso delle altre forme di vita e delle altre realtà che formano in questo caso una biosfera allargata, e quella del sistema solare, quella della galassia, quella del cosmo, anche la difesa del piccolo microbo che ha però avuto un impatto enorme sulla storia geologica e biologica marziana, ha un senso. Dopodiché ovviamente su quello bisognerà aprire un dibattito dove questa scoperta venisse fatta, su cui appunto non sappiamo quale sarà, diciamo, non so se dobbiamo fare un referendum a livello planetario. Però hai letto il problema dei tre corpi del... Sì. Beh, allora però ci sono anche altri tipi di rischi, cioè nel senso le intelligenze aliene potrebbero volerci male, cioè anzi pure loro. Va bene che siete cresciuti con T, però alla fine in effetti siamo più avanzati di noi, potrebbero considerarci, cioè, come noi abbiamo considerato gli aborigeni, cioè gente da cui sparare come fossero. Questo era quello che diceva anche Stephen Hawking, dice appunto dobbiamo evitare l'incontro con una specie di che loro se sono bene. Però questa è antropocentrica, cioè. Ma no, vabbè, cosa non ci dobbiamo salvare se loro ci vogliono schiacciare? No, ma parte sempre dalla convinzione che esista un solo modello di sviluppo e di progresso, che sia quello tecnologico, con le stesse nostre categorie cognitive, quindi di impero interstellare. No, certo. Ovviamente poi gli alieni si sono riusciti a espandersi nello spazio e non distruggere il loro pianeta, vuol dire che hanno raggiunto il ma è chiesto perché senza Ursula Le Guin ha realizzato un pianeta più esatto dove la scarsità era comunque democratica, no, la scrittura c'era progresso. Ma invece una cosa, io penso rispetto al discorso della, per esempio, a me interessa la musica, però la cosa che pensavo è che l'ultimo genere musicale che ha guardato avanti è stata la techno, l'ultimo genere futurista, ok, negli anni 90, dopodiché tutto ha cominciato, tutta la musica di adesso guarda all'indietro, quindi anche la trap, perché è una forma di dancehall sintetica, quindi non capisco dov'è l'innovazione nella trap. Allora, e questo è interessante perché non so se nelle altre arti si sia smesso a un certo punto di guardare avanti. Sicuramente nella musica a un certo punto sì, cioè ci sono proprio delle... non si è visto più niente di futurista in qualche maniera. Nel resto delle arti c'è una relazione tra questo e, che ne so, una crisi della cultura, che cazzo ne so, contemporanea, perché io veramente non vedo niente di nuovo a livello musicale da 20 anni. In generale non si guarda, non si guarda mai, cioè la tecnologia va avanti in maniera esponenziale, però contemporaneamente lo sguardo è verso delle cose che sono del passato. Cioè quello che stiamo vivendo adesso è proprio la rappresentazione, no? Per cui cioè, non so come dire, allora se questa è l'interpretazione, allora praticamente è il mio parco futuro, cioè in cui Los Angeles degli anni 60, Las Vegas degli anni dei gangster, Chicago pure, non lo so, come il parchi a tema, cioè dov'è l'immaginario se tutto dietro, la techno rompeva completamente col passato e proposeva, apriva una visione dei mondi possibili, ok, chiaramente poi c'erano le droghe e portava dei pensieri anche appunto al superamento del lavoro. Tutti quanti pensavamo che non volevamo andare a lavorare, che non serviva un cazzo, che le macchine potevano liberarci dal lavoro, no? Ma dopo questa roba qua, dopo questo movimento culturale che si chiama rave, dopo questa roba qua, dov'è il futuro? Non so, non sono un esperto, quindi non potrei dirlo, ma non so neanche se sì, probabilmente così, ma non sono neanche sicurissimo, non lo posso dire, non so se nelle altre arti per esempio ci sia questa visione retroutopica, no? Come diceva Zygmunt Bauman, può essere, sì, però c'è anche una cosa che è sempre stata, no? Ogni decennio guarda sempre ai 20 anni, sì, prima, no? E se si ispira alle sue mode, ritorna, e potrebbe essere semplicemente una tendenza che ci porta a guardare adesso così, ma magari invece per esempio le nuove generazioni la pensano diversamente, magari vedono invece più fermento. Bisogna capire se è una considerazione, diciamo, situata dal punto di vista nostro oppure invece è qualcosa di oggettivo, però non so, non ho i dati per dirlo, dovrei studiare meglio la questione. Sarebbe stato interessante capire che ironia detto che quando abbiamo fatto Apocalipso Disco, questo libro che parla della post-tecno, noi dovremmo chiamarlo Pol Pot Disco, il Khmer Rosso della post-tecno. E invece poi abbiamo chiamato Apocalipso Disco, perché anche lì la tecno è considerata finita nel 96-97, per capirsi. Tutto quello che abbiamo è già un revival, cioè. Per cui è interessante, non so, forse la fantascienza, nella fantascienza c'è anche un certo tipo di crisi, perché io gli ultimi romanzi che ho letto sono romanzi che comunque guardano indietro, anche la fantascienza, non trovo niente di. Stanley Robinson però, cazzo, ha fatto Red Moon, lui l'ha detto, è anche un compagno. Certificato. Scrive su questa nuova rivista che si chiama Comion. Ha scritto un bellissimo articolo sulla distopia, cioè how distopia is, cioè come passivizzante ormai la contemplazione del disastro, ormai sì. Per tutti inerti, cinici. Sì, sono proprio d'accordo, bisogna reagire a questo tipo di. C'era un altro intervento? No, che secondo me invece la fantascienza sulla musica non saprei dire, secondo me è un problema nostro, nel senso che non abbiamo gli strumenti cognitivi per comprendere appieno le nuove musiche. È logico che noi le ascoltiamo e per forza ci ricorda qualcosa che abbiamo già sentito, perché una certa età ne abbiamo sentita di musica. Però può essere che i giovani la sentono in un altro modo e l'elaborazione della musica va avanti comunque. Cioè è logico che poi ci sia per una rielaborazione di forme del passato, non dall'inizio dell'umanità, penso qualcosa si rifaccia. Però invece sulla fantascienza sì, è penso che invece ci sia in questo momento una bella spinta di innovazione, Van der Meer per un esempio, ma anche gli UCCin che dicevi tu del problema dei tre corpi. Sì, sì, infatti, secondo me c'è una fantascienza cinese. Sì, secondo me weird questa speculative fiction nuova, anche di stampo ecologista, diciamo. Sì, anche oggetti, cioè questa fantascienza che si rifà un po' queste teorie qua, secondo me è interessante. Poi anche la svolta di Ming in chiave fantascienza. Quella non l'ho ancora letta. Devo anche la svolta di Ming in chiave fantascienza. Sì, sì. Green Planets, esatto, bellissima antologia, non so se l'hai letta. No, si chiama, è un'antologia di critica di fantascienza recente in chiave ecologista e ecoradicale, che è curata sempre dall'autore che diceva lui, che Stanley Robinson è un altro, l'ho trovata molto per sé. Forse c'è un ultimo intervento. Sì, volevo fare un'altra domanda. Mi sembrava che fosse ad un certo punto nel suo intervento di prima apparsa la nozione, secondo l'informazione secondo la quale noi in questo momento storico potremmo anche ipoteticamente essere l'unica civiltà arrivata a questo punto dell'evoluzione all'interno di un diciamo di un grande sistema di riferimento. E mi è venuto in mente la teoria del grande filtro come soluzione al paradosso di Fermi, e volevo chiederle la sua, come dire, il suo parere riguardo a questa cosa, e se la teoria del grande filtro, che è una teoria secondo la quale una società deve superare diversi step per diventare durevole, e noi siamo all'ultimo fondamentalmente, quello successivo è quello di cui stiamo parlando adesso, cioè quello di diventare una società, una civiltà, diciamo, fuori dal sistema solare, che riesce a raggiungere grandi distanze, a coprire grandi distanze, a diventare predatorio. E mi chiedevo se la soluzione a questo problema fosse in realtà potesse essere in realtà cambiare la scala di osservazione, cioè guardarla all'interno della teoria del grande filtro e probabilmente cominciare a ragionare alla società non come una società, come dire, non come una società fatta di individui, ma come una specie. Per ragionare su noi stessi sotto un'ottica di specie, non so. Ah, certo, no. La teoria del grande filtro mi sembra anche molto interessante, sicuramente, ma anche molto pessimista. Cioè, significa da un lato che tutte le civiltà intelligenti siano uguali alla nostra, che già di per sé mi pare una cosa molto inquietante, e dall'altro punto di vista significa che tutte queste civiltà siano condannate a un certo punto del loro sviluppo tecnologico all'estinzione, per questo non le troviamo più in giro, e quindi anche o noi ce l'abbiamo appena superato il grande filtro, oppure invece siamo proprio in quel momento, e quindi da lì a poco è appunto la tesi appunto dei rischi esistenziali, pure noi per la nostra città. Io credo, per esempio, personalissimamente, penso che se sia vera questa cosa, la nostra specie sia andata verso un'altra idea, secondo me molte, ci sono delle teorie che dicono questa cosa, la nostra specie tecnologica sia destinata in qualche modo a non abbandonare tutta la realtà fisica in cui viviamo e finire in una simulazione virtuale, per noi stiamo vivendo ormai sempre di più online, potrebbe essere uno stadio che ci porta verso questo livello. Stanislaw Rem molti decenni fa aveva ipotizzato, per esempio, che tutte le civiltà a un certo punto che fanno? Costruiscono i supercomputer, realizzano degli universi personali e vanno a vivere lì dentro. E i transumanisti dicono più o meno la stessa cosa: liberiamoci dalla nostra, dal nostro corpo di carne. Io tra l'altro sono mezz'ora che devo andare in bagno perché ormai mi ha vestito, ormai sei andata persa. E viviamo in un mondo virtuale dove finalmente potremo fare tutto quello che vogliamo. C'è la puntata bella di Black Mirror che parlava appunto di questo. Noi diventiamo donne, diventiamo più giovani, diventiamo più vecchi, facciamo quello che vogliamo, viviamo tutte le esperienze che vogliamo e lasciamo stare colonizzazione di mondi con tutti i problemi che si portano appresso. Possiamo avere tutti gli universi che vogliamo dal punto di vista virtuale. A me non mi sembra una cosa sbagliata, secondo me noi siamo andando in quella direzione. Per me è inquietante anche in questo caso, lo ripeto, e potrebbe essere che anche altri siamo andati in questa direzione. Può darsi che tutte le civiltà tecnologiche oggi sono dentro grossi computer fluttuanti nello spazio vicino a grandi stelle, su tutta la tecnologia, e per questo non comunicano perché non hanno più alcun interesse, sono tutti presi i loro giochini virtuali. Potrebbe essere una possibilità emozionante. C'è anche da dire che tutte queste teorie tradiscono un antropocentrismo parecchio forte, ma non soltanto perché noi stiamo mettendo in campo di trovare qualcuno o qualcosa che abbia le nostre stesse dimensioni fisiche, cioè che ci si possa reciprocamente riconoscere almeno da un punto di vista a distanza, ma anche che i sensi, le frequenze, cioè nel senso trovare qualcosa che veda come noi, senta come noi, è un po' quella visione degli 60 che si mandava la medaglietta sullo spazio con l'omino, quei quattro caratteri che noi non abbiamo, ci abbiamo messo un sacco di tempo a interpretare la stella di Rosetta, immaginarsi una forma di vita che, cioè la verità è che poi infatti come ci immaginiamo gli alieni come noi affusolati con gli occhi, però se mandano un deraglio, mandano un deraglio, c'è frequenza e frequenza, i segnali elettromagnetici, cioè chiaro, però la è verissimo, però quello che voglio dire è che se tu devi pensare in grande, cioè devi immaginare una dimensione globale che non è più solo spaziale ma appunto è dimensionale, è temporale, in cui puoi ipotizzare delle forme di vita, magari che non sono su base carbonio ma sono su base silicio, un esempio banale, e che quindi trasmettono attraverso le cose che adesso potremmo chiamare altri tipi di onde che non appartengono alla nostra lettura della fisica dello spazio noto, no? Perché dico tradisce un certo antropocentrismo? Perché abbiamo bisogno di sviluppare degli anticorpi, nel momento in cui ci confrontiamo questo discorso, perché ci rende progressivamente talmente piccoli che appunto induce all'inerzia. Cioè se non hai la forza per essere un attore protagonista, il promotore del viaggio nello spazio, il promotore di tecnologia militare, chi ha un interesse geopolitico a sviluppare una certa tecnologia che poi prende anche ovviamente le vie dei mercati, sei talmente ininfluente in questo scenario che ne accetti l'inevitabilità. Posso cercare di tirare una brevissima conclusione? Direi che quello che si è dato fuori questa sera è che se Darwin ha vinto oggi dal punto di vista scientifico, perché tutti i scienziati fanno riferimento a lui, anche con il neodarwinismo, facendo delle modifiche, ma comunque il nucleo centrale di Darwin è quello vincente, direi che dal punto di vista dell'immaginario ha perso completamente, cioè siamo totalmente in una sfera totalmente antidarwiniana. Cioè siamo ancora dentro calati in un immaginario che vede appunto che sia antropocentrico e che vede ancora un'idea di progresso e di evoluzione, e in qualche modo l'idea che c'è un qualche cosa che ci aspetta, una specie di disegno che ci porterà a un progresso infinito e ineliminabile. Questo è la mia. Va bene, io ringrazio tutti quanti per essere intervenuti nella prima parte di questa serata. Abbiamo come sempre registrato l'audio, se c'è qualcuno che ha dei problemi vabbè, tagliamo le cose eccetera, così per attività future, autoproduzione eccetera. Fra 3 minuti esce da mangiare, alle 21 in punto comincia qui la proiezione. Grazie ancora, ci rivediamo tra un mese esatto, il 10 febbraio, con un incontro dal titolo La disneyficazione del reale.